Allora, una delle mitzvot, forse la mitzvah più importante di Rosh Hashanah, è quella di sentire il suono dello shofar. La domanda è come si definisce e come si definisce il suono dello shofar e come si quantifica ciò che bisogna, cioè i suoni che bisogna ascoltare durante il giorno di Rosh Hashanah. Allora, in generale, come base sulla halakha, i suoni sono 9. Cosa significa 9? Significa tekiah, teruah, tekiah per 3 volte. Cosa è tekiah, teruah, tekiah? Quando la Torah parla di un suono dello shofar, e a volte anche di un suono delle trombe che i Kohanim suonavano con le trombe in certe situazioni, si intende un suono semplice che si chiama tekiah. Quindi un suono unico e semplice. Teruah è un suono modulato. È un suono modulato ed è concluse, si conclude di nuovo con una tekiah. Quindi si apre con un suono semplice, in mezzo si introduce un suono modulato e si conclude con un suono semplice. Questa è la regola originale. Ora, perché 3 volte? Perché sulla Torah è scritto Teruah 3 volte. E Teruah di nuovo significa anticipato e seguito da una tekiah, da un suono semplice. 2 volte è scritto la parola Teruah nel contesto della festa di Rosh Hashanah, e una volta è scritta la parola Teruah nel contesto del Kippur, non di ogni Kippur, ma del Kippur dell'anno del Giubileo, degli Yovel. Durante il Kippur dell'anno del Yovel si suonava lo shofar per indicare ciò che dovrebbe, era come un annuncio per indicare ciò che dovrebbe accadere durante l'anno del Yovel. E perché ci sono delle regole specifiche, che ora non è questo il contesto della lezione, che si applicano nell'anno del Yovel, che è il 50° anno del ciclo di 7 volte, 7 anni, 7 volte il ciclo dei 7 anni. Che si applica solamente in Eretz Israele, solamente quando la maggioranza di Am Israel si trova in Eretz Israele, secondo le regole del Sanedrin, eccetera, eccetera. Questo veniva annunciato di Kippur con il suono dello shofar. Ok? Vorrei solo fare una piccolissima parentesi: il suono dello shofar che noi facciamo alla fine di Kippur è al di fuori di tutto questo discorso. Infatti, non c'è una berachah, lishmoa kol shofar. Quando si suona lo shofar a Kippur oggigiorno, perché è un'usanza che ha altre motivazioni e non è un obbligo della Torah come quello di Rosh Hashanah e come quello di Kippur degli Yovel. E quindi, tornando sulla Torah, abbiamo 3 volte la parola Teruah e i maestri hanno estrapolato, e secondo la tradizione che hanno ricevuto, hanno capito che tutte e 3 le volte si applicano in tutti e 2 i casi, sia di Rosh Hashanah che di Kippur. Cioè non è che sono 2 volte di Rosh Hashanah e uno di Kippur degli Yovel, ma in entrambe le situazioni ci sono 3 volte la Teruah. E di nuovo la Teruah è anticipata dalla Tekiah e seguita dalla Tekiah. Questa è la regola originale, va bene? Questo si chiama suonare lo shofar. Suonare lo shofar significa 3 volte fare Tekiah, Teruah e Tekiah, in teoria. Ora noi vediamo che in pratica non facciamo così. Allora vediamo qual è il problema e come si arriva a quello che noi facciamo in pratica. Allora l'Halakha ci insegna che esiste una grande discussione su cosa significa teruah. Che noi abbiamo detto un suono modulato, ma bisogna capire in che maniera esattamente. Perché ci sono diverse possibilità. Chiaramente una teruah viene tradotta nel Targum, nell'aramaico di Onkelos, viene tradotto Yabava, e Yabava è un pianto, è un suono di un pianto, come c'è scritto quando, se vi ricordate, la storia di Sisera. Sisera era quel generale che combatteva con gli ebrei nell'epoca di Devorah, che lei era la profetessa, e c'è scritto che quando Sisera fu ucciso dalla famosa donna Yael che lo inganna e poi lo uccide nella tenda, eccetera. Allora, quando la madre di Sisera le arriva la notizia della morte, dell'uccisione del figlio, piange. E come si esprime questo pianto sul profeta, sul libro di Giudici? C'è scritto Vateyabev em Sisera. La madre di Sisera usa questo verbo leyabev, lo stesso che si usa per tradurre la parola teruah. Significa è un tipo di pianto, è il suono che una persona fa quando rimpiange e piange qualche cosa. Lamenta, lamenta. Lamenta e piange, sì. Allora però, la domanda è come si definisce questo pianto? Ci possono essere due possibilità nel suono del pianto. Una possibilità è come viene descritto così nell'Alakha, come una persona che appunto si lamenta magari di un malore, ok? Di un dolore o di un malore o di una malattia, e nel lamentarsi fa tipo un rumore allungato. Ah, Lamento. ah, ah, sai, in questa situazione così. Oppure è più come il pianto di un bambino, il singhiozzo del pianto. Nel momento proprio del dolore, non solo di un bambino, ma proprio quando stai nella difficoltà che non riesci a prendere fiato e c'è quindi il singhiozzo, che è chiaramente molto più breve, cioè una serie di suoni molto più brevi. Così come possiamo sentire magari più comunemente con un bambino. Allora, la prima si chiama Ganach in ebraico e la seconda si chiama Yelil. La prima, visto che noi abbiamo questo dubbio, i Chachamim dicono c'è questo dubbio sulla teruah, se è il primo tipo di suono modulato o il secondo tipo di suono modulato, di conseguenza cosa facciamo? Le facciamo tutte e due. Allora la prima, quella più allungata, si chiama Shevarim, cioè come se fosse una tekiah rotta, e Shevarim significa rottami, pezzi di tekiah. Lishbor vuol dire rompere, e quella più lunga, scusate, quella con i suoni più interrotti, noi la chiamiamo teruah, come se fosse la teruah originale, cioè lì abbiamo ritenuto il nome originale. Però ora, cos'è che abbiamo detto? Che la teruah che è richiesta dalla Torah, noi non sappiamo se è quella che noi chiamiamo Shevarim o se è quella che noi chiamiamo teruah, e di conseguenza ne facciamo tutti e due. Allora, in teoria questo cosa significherebbe? Visto che bisogna fare per 3 volte, come è scritto 3 volte nella Torah Teruah, allora dovremmo fare per Combinazione. 3 volte Tekiah, suono semplice, Shevarim e Teruah, le due possibilità della Teruah, e poi la Tekiah, per 3 volte. Però, questo sarebbe valido se la Teruah sarebbe composta da entrambe Shevarim e Teruah. Visto che noi per Halakha dobbiamo assicurare che prima della teruah ci sia un suono semplice e dopo della teruah ci sia un suono semplice, se in mezzo c'è un altro suono che forse non c'entra, Non vale niente. allora non vale. Di conseguenza noi facciamo 3 serie di 3 suonate. Una serie, come ho detto prima, suono semplice, Shevarim e teruah, di nuovo suono semplice, se questo fosse Quello lì. il senso di teruah, quindi includerebbe tutte e due le possibilità di teruah. Poi facciamo suono semplice solo Shevarim, quindi questa versione di teruah, quella rotta, diciamo, e poi suono semplice. Questo modo è anticipata e seguita dalla tekiah. E poi facciamo 3 volte la teruah, quindi quella modulata in maniera più interrotta, di nuovo anticipata e seguita dalla tekiah. Quella Ecco perché combinazione quando con noi. tutte e due e due singole combinazioni solo con ciascuna delle due. Esattamente. Ecco perché a Rosh Hashanah Ci c'è sta. un certo numero di suoni, perché quando noi facciamo la Berakha, l'Ishmoa kol shofar, la mitzvah di ascoltare il suono dello shofar, subito c'è questa serie di 3 per 3. Ok? Quindi questo è Tekiah, Shevarim Teruah, Tekiah, prima serie di 3. Questo per 3 volte, poi Tekiah, Shevarim, Tekiah, seconda serie di 3, appunto per 3 volte, e poi Shevarim, Tekiah, suono semplice, Teruah, suono suono interrotto e tekiah. Di nuovo per tre volte. Ok? Il terzo è solo teruah. Tekiah, teruah, tekiah. E gli altri due, sono shevarim sempre... e teruah. Sì. Una volta shevarim e teruah insieme, una volta solo shevarim e una volta solo teruah. Ok? Sono tre volte, non mi ricordo, consecutive o... Consecutive. No, no, no, tutto consecutivo. Poi ci sono altri suoni che vedremo dopo, si suonano durante la Midah di Musaf. Questa è un'altra cosa. Ok? Quindi questo segue, come dire, il modo di suonare deriva dalla discussione delle halakha. Non ha una radice, nel senso, nella mistica o qualcosa del genere, sul numero delle... Tutto legato. No, sul numero dico anche. Anche questo è sempre tutto legato. Cioè, no, perché la qui stessa in base cosa... a un dubbio fanno così. Ok? Però alla fonte non può esserci dubbio. Sì, che dico. Sì che c'è dubbio. La matematica, bello. Allora, no, è una cosa importante. Quando noi vediamo un dubbio sulla halakha, non significa che siamo all'oscuro e quindi, siccome siamo come un cieco che tappa le mura per darsi un'idea di dove si trova e dove andare, allora per mancanza di scelta facciamo così. Quando Bet Hillel dice una cosa e Bet Shammai dice un'altra cosa, non è perché siamo all'oscuro di nuovo e c'è un dubbio. Entrambi i maestri dicono Eilu va Eilu divrei Elohim Chaim. Entrambe le posizioni, entrambe le opinioni sono le parole del Dio vivente. Allora com'è possibile che parla in due lingue? No? Perché effettivamente nelle fonti, nelle sfere superiori, ci sono diverse espressioni di come la manifestazione viene fuori. E può darsi che, per esempio, nell'esempio fatto da Bet Hillel, che Bet Hillel è una cosa più legata all'aspetto di chesed, di benevolenza, lo vede in una maniera nei mondi superiori, e Bet Shammai, che è più legato al mondo di Gevurah, all'aspetto di rigore, lo vede in un'altra maniera sempre nei mondi superiori, sempre validi sulla sfera spirituale. Il problema si pone nella sfera pratica, dove bisogna applicare solamente una delle possibilità. Ecco perché la halakha segue, secondo alcune regole, una delle maniere. Ma nel senso spirituale della cosa è più semplice, nel senso nello spirito si possono convivere diverse possibilità senza contraddizione, cosa che non è possibile nella sfera pratica. Quindi nella sfera pratica i Chachamim devono decidere in una determinata maniera, ma nella sfera superiore possono coesistere tante cose diverse. Infatti, dimmi. La differenza del tempio maggiore è come si usa poi normalmente nelle altre, cioè nel numero dei suoni che vengono suonati il giorno della Shoshana. C'è differenza tra tempio maggiore e okay. le altre tradizioni. E questo sì. Lo dieci anni fa. Sì, però questa è un'altra cosa. Quello che noi abbiamo detto adesso è una base che tutte le comunità, cioè, tempio maggiore, minore, minorca, maiorca, tutti seguono. Quello che abbiamo detto fino adesso è la base dell'Alaha. Quindi 3 per 3, serie di 3 per 3, fanno tutti. Quello che cambia... Il numero delle chiamate che si fanno... No, quello che cambia è nel Musaf, quando si suona, alcuni suonano solamente nella ripetizione di Musaf, mentre altri suonano anche nel Musaf detto a bassa voce. Inoltre, alcuni suonano nuovamente alla fine di Musaf e altri fanno addirittura due serie dopo Musaf. Ok? Quindi arrivano a 100 suoni e in alcuni casi non si arriva a 100 suoni. Questo già dipende dall'usanza, ma quella base che abbiamo detto noi adesso è una base assoluta. Che tutti seguono. No, non esiste. La regola regola, la regola regola. Sì. Se non so farvi, fa così e basta. Esatto. Punto. Capisciamo? Sì. C'è una relazione tra Tekiete Ua e Chesed Ua? Sì. Normalmente, adesso stiamo parlando alla Ha, però in generale credo che Tekia è associato con Chesed, il suono semplice, l'apertura totale, diciamo così. Mentre invece Shevarim e Teruah, diverse fasi più o meno restrittive di Gevurah. In generale si dice così, poi si può approfondire. Questo ha effetto anche su di noi quando lo ascoltiamo. Certo. Vero. Sì. Ok, allora vediamo un attimino il testo qua. e in base a quello che abbiamo studiato sarà più comprensibile. Shiur HaTekiot, la, diciamo, la definizione, letteralmente Shiur è la misura, no? Come si definiscono le Tekiot? Allora, qui alle tre righe dal basso della pagina dice le Katkhila Tzarich Liot Kach, a priori deve essere nella seguente maniera. Cioè, quanto lungo devono essere questi suoni? Atrua, la base minima della teruah, del suono modulato interrotto, quello che noi chiamiamo teruah, hi tisha kochot ktsarim, nove brevi suoni. Il minimo è nove brevi suoni per la teruah. Vea shevarim, mentre invece quello che noi chiamiamo shevarim, interrotto, un po' più lungo, è gimel shevarim ze achar ze. Tre shevarim, uno dopo l'altro, che ognuno di questi tre shevarim corrisponde a tre dei suoni brevi che abbiamo detto prima. Quindi la lunghezza tempistica di ogni suono dovrebbe essere la stessa. La tekia, un suono lungo, con la stessa tempistica dei tre suoni modulati del okay, shevarim, con la stessa tempistica delle nove della teruah. Così come base, sì, così come base dovrebbe essere, ok? E quindi bisogna fare molta attenzione, dice Visa Ermeod, se tu in ogni volta che si fanno i shevarim, ci sono tre pezzi, se tu in uno di questi pezzi allunghi più di quello che corrisponderebbe a nove interrotti, diventerebbe come una tekia, sarebbe considerato un suono semplice e quindi è come se non avessi fatto i shevarim. Ecco perché chi suona lo shofar deve imparare bene, più di quello che stiamo studiando qui stiamo studiando solo in generale, deve imparare molto bene le regole che riguardano il suono dello shofar, che Carlo ha studiato, che possono essere un po' complesse, visto che ci sono tutte alcune e molte cose da prendere in considerazione, alcune che abbiamo appunto esposto adesso. Ma non ora, esiste una partizione di questi qui scritta? Certo, è tutto scritto nella Ha. No, ma dico, questo più questo più questo, è scritto come la musica. E se tu prendi sì, è scritto. Ci sono proprio le chiamate di come si va suonato, man mano che tu vai avanti nel percorso che arrivi là. Poi ci sono proprio le lettere, sì, lettere ebraiche che corrispondono a questa, a quella, a quell'altra, come vanno suonate. Sì, ora, se una persona volesse allungare il suono della tkia, cioè del suono semplice, oltre il tempo di nove suoni semplici, lo può fare. Può allungare la tkia, può essere fatta in maniera più lunga, anche senza limite. Se uno vuole dimostrare quanto fiato ha nel fare la tkia, può farlo. Non è un problema. Non lo rende una non tkia. Rimane sempre valida come tkia, ok? Anche per ciò che riguarda in realtà le interruzioni, la teruah, quindi quella interrotta con le brevi interruzioni, una persona se volesse fare più di nove suoni, potrebbe. Sarebbe permesso fare più di nove, perché è comunque interrotto, quindi non si esce dalla categoria di teruah. Importante il tempo. Chiaro? Quello che dico, anche se tu esci dal tempo. Se tu fai 9 come minimo, ma poi allunghi, continui a fare altri, ne fai 18 per esempio, è chiaro che il tempo è più lungo nel 9 rispetto a 18. Però va bene uguale, perché non sei uscito da questa categoria di tipo di suono che serve teruah. Si può diminuire, ma si può, quindi non si può diminuire, esatto, ma si potrebbe aumentare. Mentre invece i shevarim si usa non fare più di 3. Perché allora diventerebbe una confusione. Nove possono essere di più, ma shevarim. Anche il fiato, perché poi sì. Ci sono che usanze che fanno tre shevarim e mezzo o quattro shevarim, però non più di questo. Allora, quello che dice qui. Vatkiot ema havarot psutot. Lui chiarisce di nuovo le tekiot sarebbero i suoni semplici. Pagina 6. Ubeseder tkiah shvarim. Nella prima serie di suoni, cioè quella in cui si fa un suono semplice e poi Shevarim e Teruah, entrambi i suoni modulati, la prima serie e poi il suono semplice, allora in quel caso la Tekia, il suono semplice iniziale e finale, deve essere lungo almeno quanto la lunghezza di Shevarim e Teruah insieme, che è quello che si fa in quella serie, perché se la definizione di Teruah è come si vuole dire nella prima serie, Shevarim e Teruah insieme, allora la Tekia deve avere quella stessa lunghezza, come minimo, di nuovo. Quindi la Tekia, la lunghezza della Tekia, è relativa alla serie in cui si sta suonando in quel momento. Se si sta suonando la prima serie, che è Shevarim e Teruah insieme, anche la Tekia relativa a questa serie deve essere di, almeno di quella lunghezza, mentre invece le successive due serie, che hanno la Teruah più breve perché sono o Shevarim o Teruah, in quel caso la Tekia deve corrispondere alla lunghezza solamente di una. Ok? Quindi nella prima serie la Tekia deve essere lunga 18 suoni, perché se si definisce il Shevarim come, o la Teruah, 9 suoni interrotti, ugualmente come i Shevarim, che corrispondono a questi 9 suoni interrotti, e abbiamo entrambi in questa serie, sia Shevarim che Teruah, quindi abbiamo 9 e 9 come tempistica, la Tekia, prima e dopo, deve anche essere minimo 18, tempo di 18 suoni di Teruah interrotta. Ok? A differenza delle prossime due serie, che deve essere come minimo 9, come dicevamo. Ubeseder, Tekia, Shevarim, Tekia, Tehe, Kol Tekia, Aruka, Kemo, Shevarim. Il suono del semplice deve essere lungo come Shevarim. Dehainu, Kemo, Tet, Kochot, 9 suoni. Ugualmente anche nella seconda. Ora, la domanda che ci si pone, il problema, de quando si fa Shevarim e Teruah insieme. Se questa fosse la definizione di Teruah, Shevarim e Teruah insieme, e quindi nella prima serie noi facciamo Shevarim e Teruah insieme, la domanda è, questa Shevarim e Teruah insieme è definita come un unico suono o come due suoni distinti? Tu dici, cosa cambia? Cambia, perché perché per distinguere tra un suono e l'altro nel suonare lo shofar bisogna prendere fiato. Bisogna interrompere, prendere fiato e fare il prossimo suono, perché questo è ciò che distingue tra un suono e l'altro. Allora la domanda è, tra i Shevarim Teruah della prima serie devo prendere fiato perché sono due suoni diversi, oppure è un unico suono, un'unica Teruah tra virgolette, e non devo prendere fiato quindi? Qual è la halakha? Deve prima della halakha, scusa, non devo essere una battuta, ma... No, Shevarim e Teruah insieme si può fare facilmente. Cioè no. Il fiato lo deve prendere. È d'accordo. No, Shevarim e Teruah insieme si può fare facilmente senza prendere fiato, non deve essere molto lungo. 3 suoni e 9 suoni modulati, non è un problema. Allora la halakha propone un compromesso. La halakha propone un compromesso. Aspetta. Visto che abbiamo due volte tutta la serie dei suoni, una volta prima di Musaf, che è quando si fa la Berakha, e un'altra volta durante Musaf, come dicevamo prima, durante almeno la ripetizione e secondo alcune usanze anche nel Musaf silenzioso, di conseguenza la Halakha dice che nella serie di suoni che si fa prima di Musaf, cioè subito dopo il Sefer, eccetera, si fanno il Shevarim Teruah in un unico fiato, senza prendere fiato, mentre invece quando si ripete il suono nella Amidah di Musaf, si prende fiato e si interrompe tra uno e l'altro. E quindi, se è valida la prima o la seconda, si fanno entrambe. In una serie si fa così, senza prendere fiato, e nell'altra serie si fa prendendo sì fiato. Perché questo definisce il suono quando inizia e quando conclude. Quindi anche la presa del fiato rientra un po' nel criterio della... Entra molto, non un po', sì. Cioè è importante, non è un caso quando mi serve... Assolutamente. Ma ce la fai uno a... Per questo quando si dà indicazione, Scusa? Ce la fai Rava a far tutti e due insieme senza prendere Non è fiato. Difficile, non è lungo. Se vuoi facciamo la dimostrazione. Tu col tuo... Guarda, che forse sono Ok. quello suo che tutto, quello che c'è Shalom, quello suo, c'è un ottimo suono e poi... Ora, una cosa pratica, non solamente per chi suona lo shofar, ma per tutti coloro che ascoltano il suono dello shofar. Noi sentiamo, prima del suono dello shofar, sentiamo la berachà relativa alla mitzvah di suonare lo shofar. E chiaramente, come sempre, quando sentiamo una berachà, ma è valida anche per chi sente, non solamente per chi la recita, appunto, tenendo in mente che si vuole uscire l'obbligo. Sentendo la berachah e fa facendo fare la mitzvah a un agente per noi, che è quello che suona lo shofar o dice il kiddush o quale sia la situazione, quindi noi dobbiamo rispondere amen tenendo questa kavanah, questa intenzione in mente, ma dobbiamo anche non interrompere con la nostra parola fino a dopo che la mitzvah è stata fatta. In Certo. questo modo non si fa interruzione tra la berachah della mitzvah e la mitzvah stessa. Ora la domanda è quando conclude la mitzvah? Come fate questo? Se do la prima serie o poi ho cambiato. Allora, la cosa ideale sarebbe di non interrompere fino a dopo la ripetizione di Musaf, dove abbiamo concluso la seconda serie dei suoni dello shofar. Quindi bisognerebbe stare in silenzio. Si fa lo shofar. La berachah, si risponde amen, si fa lo shofar, ci si mette a fare la Amidah di Musaf silenziosa, si attende la ripetizione dell'Amidah e in tre punti durante la ripetizione si suona lo shofar e dopo che si conclude, allora possiamo iniziare a parlare. In realtà non si dovrebbe parlare mai durante la ripetizione dell'Amidah, non solo di Rosh Hashanah, non solo di Questo Kippur, volevo non solo di dire, Shabbat, sì. ma anche tutti i giorni feriali. Quindi uno dovrebbe, però anche prima che inizia la ripetizione, in questo caso, bisognerebbe non parlare, non interrompere, perché la berachà da prima dovrebbe essere coprire, dovrebbe andare a coprire fino all'ultimo suono della ripetizione dell'Amida. Se non sbaglio, Rosh Hashanah è l'unico giorno dell'anno in cui c'è l'obbligo, anche per le donne, di venire al Bet Knesset per sentire il suono del shofar. Credo che sia così, che Yom HaTruah è il giorno del suono proprio, viene definito. Quindi, siccome donne normalmente gli altri non vivono, Faccio una c'è domanda questo obbligo tecnica. Sì? Anche come si Anche le sa donne sono obbligate a sentirlo shofar, vero? che i shofar sono fatti da quelle corna, no? Sì. E queste corna non sono tutti diversi l'una dall'altra, non esiste una corna Ok, uguale all'altra. va bene. E il suono che è prodotto da questa corna Può essere un suono diverso. Sì. cambia completamente delle volte Ok. in una cosa. E come il suono è quello che entra proprio nella persona, la modulazione di quel suono, che entra proprio, uno lo sente di più, lo sente di meno. Allora, l'Alakha Quindi dice c'è una cosa Kol che. hakolot ksherin bashofar. Tutti i suoni sono adatti, sono idonei per ciò che riguarda lo shofar. Giustamente, quello che tu dici che ogni shofar fisicamente è diverso, no? Allora, il criterio, la diversità non è un problema. Il criterio per lo shofar, il corno dell'animale che è kasher per essere uno shofar, deve essere innanzitutto da un animale che sarebbe kasher. Ma non ogni animale kasher che ha delle corna, queste corna sono kasher per lo shofar. Ci sono due tipi di corna. Un tipo è come un osso, dove c'è un midollo interiore, e un altro tipo è un unico blocco. Per esempio, il toro ha le corna, ma queste corna sono un unico blocco. Allora, in teoria, tu dovresti creare un foro attraverso questo Mamma blocco mia. e questo tipo di corno non è kasher per essere uno shofar. Adesso vuoto. Mentre invece se tu prendi la capra o la pecora o anche No, altri non mi esempi, serve. c'è il midollo interiore e si bolle per molte ore su una temperatura molto alta finché si riesce ad estrapolare il midollo e rimane la parte esterna, che poi va lavorata come Carlo lavora le shofarote e altri esperti, e poi si può usare questo come shofar. Quindi questa è la definizione. Il suono che fa non cambia, può essere un suono molto diverso uno dall'altro, l'importante è tenersi a queste regole di come bisogna interrompere e suonare, ma il tipo di suono, l'altezza o la bassezza, sulla scala del come si dice? Modulazioni, no? Sì, non è un problema. Comunque la società prevalentemente, così dicono, la tradizione è quella di suonare lo shofar fatto di corno di montone, Sì, perché c'è perché? la legatura di scacca e Bravissimo. quindi Si usa prendere un corno di montone per ricordare e per elicitare la misericordia divina, ricordando con la legatura Yitzhak, di Yitzhak, che è stato sostituito da un montone che è stato poi che poi sacrificato al questo posto dice suo. Rav, perché bene come dica lui, perché Che c'è cosa? differenza tra il corno destro e il corno sinistro, Pure. certo, Sì. perché uno poi sarà suonato, credo che sia il sinistro, quando si vorrà Quando viene il Mashiach. Mashiach, Mashiach, Mashiach, certo, sinistro. sinistro. Capisciamo? Sì. Nel caso che non si applica la Lachah e quindi non si esce d'obbligo, così dopo che ci sono shofar prendiamo a parlare oppure socializziamo, in quel caso non ha effetto su di noi, Allora, ci può. dipende qual è la motivazione del non uscire l'obbligo. In altre parole, bisogna vedere qual è il problema e definire se con questo problema non si esce l'obbligo e bisogna ripetere il suono, oppure si esce a posteriori, comunque si esce l'obbligo. Quindi, spiego meglio, se si fanno gli suoni dello shofar e poi ci si accorge che c'è un errore di base No, no, non tecnico, parlo, scusi, non parlo ok? del rap, Lo parlo so. di io come pubblico che dopo che ho finito mi Sì, sono no, ma concentrato. io allargo il Ah, problema. ok. Se ci fosse un problema così, che chi fa la tkia shofar, che non deve essere un rav, si chiama Baal Tokea, colui che ha studiato e sa fare la tkia, le tkiot, i suoni, però poi viene fuori che magari il rav o qualcuno del pubblico che ha studiato viene e dice: scusi, ma lei ha suonato così e così, ha fatto un errore perché... Allora, in alcuni casi, potrebbe essere che bisogna ripetere tutta la serie di suoni. In altri casi, potrebbe essere che... Non andrebbe fatto in quella maniera, ma se fosse già fatto, a posteriori si esce comunque l'obbligo. Se si interrompe invece con la parola, quindi abbiamo sentito la Berakha, abbiamo detto Amen, abbiamo sentito lo shofar, e poi ci siamo messi a parlare, e poi dopo ci sono stati i suoni dello shofar, comunque si esce l'obbligo, cioè questo non rende invalido ciò che abbiamo sentito prima. Quella mitzvah rimane comunque, a posteriori rimane comunque valida e non serve sentire di nuovo lo shofar, anche se questo non significa che bisogna andare a parlare. Però a posteriori non si perde la mitzvah, non la rende invalida, anche perché se uno sente lo shofar, se uno avesse sentito il suono dello shofar in maniera valida, senza sentire la berakha, Uguale. non è uguale, ma comunque esce Invece l'obbligo. l'importante è uno è sentire arrivato lo tardi e la giambella che c'è stata detta Sì, e sente l'obbligo base di sentire lo shofar l'ha fatto. La berakha deve esserci, deve introdurre la mitzvah, bisogna sentirla, eccetera. Ma una volta fatta la mitzvah, in questo caso ha già sentito lo shofar, allora l'obbligo è uscito. Se ha modo di sentire un altro suono e sentire anche la berakha, meglio. Però l'obbligo stesso è uscito l'obbligo. Quindi anche nel caso in cui avesse magari parlato dopo, a posteriori l'obbligo rientra nella mitzvah, non è che deve ripeterla. quindi rispondi alla mia domanda con questo, perché io Sì. nell'Amidah rimango sempre indietro, oltre voi ricominciate, io ancora Ok. sto finendo la mia. Va bene, questa non è considerata un'interruzione No, perché però, tutti no, devono no, fare infatti, l'Amidah. perché sì, però tu suoni lo shofar in un momento che io sto ancora indietro. Ok, ma questa non è interruzione. Esatto, quindi è disposto, senza Sì, avessi sì, sì, l'obbligo sì. stesso. Vero. Addirittura la Halakha dice, anche se non bisogna interrompere, ma se qualcuno ha interrotto sì con la parola, anche se si è messo a parlare per qualche ora, così dice Ammazza, la Halakha, c'è proprio. allora si vede goccio. non deve tornare a fare i suoni. Ok? E Anche non non aspetti solo, che finisce. anche addirittura se ha parlato tra i suoni stessi, mentre si Ah, suona lo sì. shofar, quindi non solamente dopo, tra una serie e l'altra, ma addirittura tra la tekiah e i shevarim, Qui non ci verrà obbligo nessuno, se no comunque esce finiamo l'obbligo. quel casino qua. Ok.